Scattano le 20 e 5 minuti primi, siamo nella giornata di mercoledì 25 di giugno, così cita il calendario. La voce che sentite è quella di Marco Gravelli, inizia il nostro spazio di Linea Rock 90 minuti, non da solo, perché ogni mercoledì sarà così, sino alla fine del mese di luglio, quando poi mi concederanno un paio di settimane di vacanza. Avrò ospiti i miei ex colleghi e grandi amiconi di Rock FM. Dopo Ariele, dopo il DJ Edo, questa sera abbiamo dall'altra parte del vetro, e qualcuno ti ha già beccato e visto in webcam tramite il sito di Radio Lombardia, www.radiolombardia.it. Ci potete vedere e soprattutto ci potete seguire in streaming. Mox Cristadoro, benvenuto. Caro Marco, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, si direbbe. Tanto per fare una citazione cinematografica che questa sera non arriva a caso. Ma ammetto di avere un filo di emozione a riapprossimarmi a un microfono radiofonico, quello di Radio Lombardia, e sono comunque molto felice, soprattutto anche perché dall'altra parte del vetro c'è un calibro come quello di Marco Gravelli, e insomma troppo buono. Devo dire che Linea Rock è un marchio che mi ha visto già protagonista ben 20 anni fa, nell'88, quando ero a Radio Peter Flower. Quando ero a Peter Flower, e ci fu l'occasione di intervistare me e un mio collega all'epoca di un gruppo, e fu una grande emozione. Anzi, mi piace, mai avrei pensato che ci sarebbe stato un ritorno oggi. Io do il benvenuto a tutti, sono felice di essere qui e sono felice che siate in tanti là fuori, e oggi parleremo di colonne sonore, giusto per dare un tema. Infatti, prima di buttarci nel discorso musicale, citiamo i contatti: potete scriverci, potete salutare Mox con una mail diretta a @radiolombardia.it, oppure con un sms al 339-266-3825. Salutiamo gli amici dell'Urlo Box tramite rockfamily.it, e hai già anticipato, ti sei preparato un appuntamento musicale all'80%. Io ho anticipato ieri sera di rock, ci saranno un po' di escursioni anche, certo, dal mondo rock, però legato al cinema, quindi un connubio tra la musica rock e il cinema e le visioni, giusto, perché poi tra l'altro, arrivando da anni di un programma che si chiamava Easy Rider, quindi il titolo di un film, mi sembrava bello un po' ripartire con questa idea primordiale. Peraltro oggi è una supplenza quella di Faulisi, che era stato annunciato, è una rotazione, realtà, quindi non ci sono problemi. Allora, da che film iniziamo, e quindi poi annunceremo la canzone? Partiamo con un cartone animato che ci dà occasione anche di celebrare un compleanno, che tra l'altro è stata una casualità, perché ammetto che fino a ieri non lo sapevo. Oggi sarebbe il 62esimo compleanno di Alain Lanier, che è un componente e un founder member dei Blue Oyster Cult, band che tutti sanno che io amo particolarmente. E allora partiamo da un film di fantascienza, di animazione del 1981, che ha una colonna sonora strepitosa, molto molto rock. Il film non a caso si intitola Heavy Metal, non è solo heavy metal ovviamente la componente musicale di questo film, ma un pezzo che fa della fantascienza veramente una bandiera è questa, veterano delle guerre psichiche, e ovviamente Blue Oyster Cult, che originariamente è sull'album Fire of Unknown Origin. Here we go. gonna be free. Don't let these shakes go on. It's time we had a break from it. It's time we had to leave. We've been living in the flames. We've been eating out our brains. Oh, please don't let these shakes go on. Questa interpretazione Blue Oyster Cult, chi li conosce, chi li apprezza, propone un sound anche molto molto carico. Questo è un motivo molto molto strano, forse sì. Per questo scelto appositamente per una colonna sonora. Sì, infatti è un'apertura all'insegna dell'hard rock progressivo. Peraltro mi piace segnalare che i Blue Oyster Cult sono in circolazione, hanno suonato a Roma proprio questo mese, poi sono in tour per l'Europa, un mio amico ha avuto occasione di andare a vedere a Londra, ma la bella notizia è che torneranno a ottobre al Live di Trezzo e quindi riusciremo a vederli. Nonostante appunto la loro età, sono sempre molto in gamba e questo è uno dei loro brani secondo me più riusciti. Siamo partiti quindi con la colonna sonora di questo film a fumetti che si chiamava Heavy Metal. Esatto, un film d'animazione che prendeva appunto spunto dai fumetti tipo Metal Harlant che erano in voga proprio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 e quindi era proprio un boom, un'esplosione di animazione in quel momento. Il prossimo invece è un film famosissimo, un grande film western con un classico della canzone d'autore americana, infatti scomodiamo il più grande. Io nel frattempo sto prendendo nota dei nomi di tutti gli amici all'ascolto, poi menzioniamo. Sì, poi ci sarà tempo. Però proseguiamo con la musica e quindi Pat Garrett e Billy the Kid, un classico film western del 73 che appunto narra vicenda di amicizia, inimicizia, insomma un altro classico di questa cinematografia, ma soprattutto un classico dal punto di vista musicale, perché Bob Dylan sforna un album veramente bellissimo e uno dei pezzi più celebri alla fine del suo repertorio, coverizzato anche da moltissimi autori, non ultimi Guns N' Roses, è proprio questa Knocking on Heaven's Door. Bob Dylan. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock. around. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. L'hanno rifatta in tanti, però l'originale è sempre l'originale, purché, anche se una pecca di questo brano è che è brevissimo, è la sua versione di Bob Dylan, però grande. Per chi fa questo mestiere, soprattutto, bisogna porre una certa attenzione, esatto. Bussando alle porte del paradiso. Allora, io inizierei col ringraziare l'amico Filippo che giustamente manda una rettifica a proposito di Blue Oyster Cult. Per quanto riguarda la data, sono riuscito già a fare il primo errore, indicandovi ottobre come data per Trezzo sull'Adda. In realtà è il 17 settembre, dico bene? Dici bene. Allora, saluto ovviamente e ringrazio Filippo, ma saluto anche Beppe Riva in ascolto da Bergamo. La cosa mi fa immensamente piacere. Grande giornalista, esatto. Grande cultore, amante della musica rock in genere, quindi un salutone. Inoltre i saluti anche a te Marco, quindi siete colleghi di vecchia data. Poi saluti agli amici Edo e Bea ovviamente, e poi Eugenio e Daniela, Man on the Moon, Sergio 136 da Milano, Tino, Matteo, Marco Pux e Daniele da Faenza, insomma tutti collegati questa sera per farsi una scorpacciata di buona musica, ma anche di colonne sonore e anche di film. La prossima andiamo al maestro del thriller italiano. Okay. Sì, diciamo quello più famoso, per quanto chiamarlo maestro in realtà, insomma, anche lui ha delle radici, delle derivazioni e delle radici. Mario Bava è il suo maestro in realtà. Ispiratore, esatto. E lui è Dario Argento. E lui poi diventa famoso sfruttando proprio questi classici. Allora, cambiamo genere, abbiamo affrontato la fantascienza d'animazione, il western, ora entriamo nel thriller vero e proprio, quando Dario Argento all'inizio degli anni 2000 ripropone il genere con cui è diventato ricco e famoso, e quindi il thriller con cui ha iniziato negli anni 70. Dopo la trilogia Negli Animali, lui realizza Profondo Rosso, e questo Non ho sonno è un po' un ritorno all'ambientazione di Profondo Rosso, e non a caso richiama i Goblin, che per l'occasione si riformano, si riassemblano nella formazione originale con il sempre bravissimo Claudio Simonetti, certo, poi anche Marangolo Pignatelli, uno dei più grandi bassisti in circolazione, e anche Massimo Morante. Allora, la title track questa Non ho sonno, e il suono, per quanto moderno, è abbastanza riconoscibile, è una sorta di progressive abbastanza metallico. Non ho sonno, Goblin 2002. Thank you. naturalmente immaginate queste sonorità, chiudete gli occhi, una situazione thriller da paura, e quindi ci sta bene, è studiata. Anche, sempre epici i Goblin, direi, con il loro suono, e insomma un bel ritorno proprio all'inizio degli anni 2000, anche dal punto di vista musicale. Dario Argento ha voluto proprio ricreare tutta quell'ambientazione sonora e visiva, con un risultato poi discutibile, per carità, copiare o rifarsi ai capolavori, anche se firmati da se stessi, non è sempre facile. Certo. Allora, va bene, il viaggio nei film continua con l'Italia, con ancora l'Italia, un'altra, esatto, band italiana. Facciamo un link, due band di progressive, una arriva da Roma, cioè i Goblin, e l'altra, la prossima, arriva da Napoli. Una band veramente seminale. Pensate che gli Osanna, cioè quelli che stiamo per prendere in considerazione, usavano dipingersi il viso, però già nel 71, quindi prima che lo facessero i gruppi glam, i Kiss, così. Oppure le varie maschere, vedi Slipknot, eccetera. Ovviamente. Per cui un primato che probabilmente spetta a loro. Esordiscono nel 71 con l'album L'Uomo, ma già il secondo album è la colonna sonora di un film bellissimo, che è Milano Calibro 9, realizzato insieme a il maestro Bakalov, quindi un bel connubio tra orchestra e gruppo rock. Bakalov aveva già collaborato l'anno prima sempre per un'altra colonna sonora, ossia Concerto Grosso dei New Trolls, che tra parentesi domani sera suoneranno all'Idroscalo di Milano, quindi chi vorrà esserci magari avremo modo di incontrarci. Quindi prendiamo in mano il tema da Milano Calibro 9 del 1972 per Osanna. Brano tutto strumentale oppure ci sono degli insert vocali? È uno strumentale anche questo, perché poi in quell'album è prevista anche una canzone che si chiama per l'appunto Canzona, ed è cantata in inglese. Ok. Cosa abbastanza anomala per l'epoca, erano pochissimi gruppi italiani che cantavano in inglese. Il tema portante quindi del film Milano Calibro 9, interpretato dagli Osanna. Thank you. Ci eravamo lasciati prima del break pubblicitario e del meteo con il film Milano Calibro 9, un pezzo tutto strumentale degli italiani Osanna, e rientriamo con un altro must. Qui siamo veramente a un capolavoro. Bisogna dire che il clima si è fatto poliziesco, quindi poliziesco all'italiana dei primi anni 70 con gli Osanna e il maestro Bacalov, e a fine anni 70 invece un film in cui la corsa la fa veramente da padrone, ossia I Guerrieri della Notte. Ci trasferiamo a New York e la corsa per ritornare nel quartiere di Coney Island è veramente mozzafiato, e questi erano i protagonisti di questo film che insomma ha lasciato un po' di nostalgia un po' in tutti noi, visto che noi intendo quelli della mia generazione, e soprattutto grandissima musica di Barry DeVorzon, esatto, che è il compositore che si è occupato di scrivere questa colonna sonora, però avvalendosi anche di altri grandi musicisti come ricordiamo Walsh degli Eagles, con il quale ha scritto una canzone bellissima, sempre inclusa in questo, in questa colonna sonora, The Warriors. Allora, ricordiamo che siete all'ascolto di Linea Rock nello spazio serale, ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21.30 su Radio Lombardia. La voce che di solito sempre conduce appunto lo spazio Linea Rock è quella che sentite, quella di Marco Gravelli, ma ospite questa sera Mox Cristadoro, e stiamo parlando del rock e non solo, abbinato alla cinematografia, abbinato alle colonne sonore. Vuoi salutare, esatto, altri amici? Certo, ho il dovere ma anche il piacere di ricordare altri amici che scrivono: Maggie da Viareggio, Flavio Ghisi da Milano, Ste73, Andrea, Mirka, Cristian Treccia, Shandy, Margherita, insomma sono tantissimi, c'è un susseguirsi enorme di messaggi che ovviamente ci dà molto piacere. A questo punto, Marco, ci trasferiamo dalla New York dei Guerrieri all'Inghilterra del punk. Alla Londra del punk, il periodo è assolutamente lo stesso, quindi la fine degli anni 70, e il gruppo più noto, che peraltro si è esibito proprio nel nostro paese settimana scorsa, ossia Sex Pistols, a un certo punto della loro carriera diventano un vero e proprio caso, un caso mediatico, al punto che nasce la cosiddetta Great Rock and Roll Swindle, quindi la più grande truffa del rock and roll, ad opera del loro manager Malcolm McLaren, e nasce anche un film che documenta tutta la vicenda Sex Pistols, ossia proprio The Great Rock and Roll Swindle. Esce anche la relativa colonna sonora nel 79, un doppio album con una varietà, una proposta molto molto varia di musiche, quindi il punk ma non solo, anche la dance, anche delle versioni veramente sorprendenti dei brani dei Sex Pistols, ma io ho scelto una classica, una tradizionale canzone punk molto melodica, ossia Silly Thing, dalla colonna sonora di The Great Rock and Roll Swindle del 79. Yeah. Si intitola Silly Thing ad interpretarla la formazione dei Sex Pistols che abbiamo ritrovato questa sera nello spazio di Linea Rock. Ricordo ancora gli sms, il 339-266-3825, la mail diretta chiocciola radiolombardia.it. Rimaniamo nell'Inghilterra di quel periodo, un po' prima dei Sex Pistols. Un po' di classici questa sera, come avrete potuto notare, si spazia un po' nel genere, come era anche consuetudine del programma che conducevo fino a un po' di tempo fa. Ovviamente ci sono delle menzioni da fare. Adesso abbiamo menzionato un momento tipicamente punk inglese. Ricordiamo che poi in quel periodo uscirono anche il film Rude Boy, dedicato quindi ai Clash piuttosto che Rock and Roll High School, con la presenza dei Ramones. E io approfitterei anche per fare un annuncio che è interessante, perché mi è arrivato proprio una segnalazione via mail, per chi abita a Milano o comunque in zone limitrofe. C'è una rassegna molto interessante che è allo spazio Overdan qui a Milano, quindi in zona Porta Venezia, si chiama Rock Music e Film, non a caso. Un sito relativo per chi vuole cercare informazioni è cinetecamilano.it/Overdan, e inizia proprio il 5 luglio col documentario sugli Who, Amazing Journey, The Story of the Who, e poi il 10 luglio ci sarà Il Futuro Non È Scritto, quindi il film sulla vita di Joe Strummer, con replica domenica 13 alle 19. E poi ci saranno altri film come New York 77, The Coolest Year in the Hell, The Wall, Absolute Beginners, tutti con inizio alle 21.30. Quindi ripeto il sito: rassegna Cineteca Spazio Overdan, Rock Music e Film. Il sito è cinetecamilano.it/Overdan. Hai citato The Wall. The Wall uguale Pink Floyd più di una colonna sonora, però. Beh, non tante, però più di una. Esatto, infatti Pink Floyd sono un gruppo immancabile, ovviamente, e che inizia a scrivere musica per film proprio nel lontano 69. C'è un film ambientato sull'isola di Ibiza che si intitola More, e in italiano verrà poi tradotto Di Più Ancora Di Più. Una storia maledetta di droga, una coppia che finisce molto male vista la sua dedizione alle sostanze stupefacenti, in particolare all'eroina. Però l'ambientazione è dichiaratamente freak, molto psichedelica, e ovviamente anche la musica dei Pink Floyd si sposa benissimo con questa immagine. Nonostante questo, il brano che ho scelto è un suono abbastanza atipico per i Pink Floyd. Lo definirei quasi grunge ante litteram, visto che è del 69, quindi dal terzo album ufficiale dei Pink Floyd, che si intitola More, come il film. Ascoltiamo questo Ibiza Bar. No, si intitola The Nile Song. Nile Song, sì, Ibiza Bar è un altro pezzo, sì, okay. Mi sono confuso. Abbiamo scelto The Nile Song, quindi la canzone del Nilo, Pink Floyd. Sembra strano, ma sono loro, Pink Floyd. Questa è The Nile Song, la canzone del Nilo, colonna sonora di una delle, la prima colonna sonora del gruppo. Direi di sì. Poi Roger Waters un anno dopo realizza insieme a Ron Gisin Music from the Body, che anche quella è una colonna sonora. Ma direi che tutto sommato la voce di Gilmour era riconoscibile. Era riconoscibile. Invece hai citato quello che è stato per tanto tempo il nome del tuo programma, Easy Rider, esatto, che prendeva spunto naturalmente dal famosissimo film di motociclisti e di quello che c'è alle spalle, diciamo. Film di riferimento. Easy Rider, Libertà e Paura fu il titolo con cui venne pubblicato, si può dire. Fu divulgato nelle sale cinematografiche italiane e il primo road movie, il primo grande road movie della storia del cinema, e quindi è il caso di dire il viaggio continua. Io ho scelto un bellissimo brano acustico, It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Siamo verso la fine di questo film, lui è Roger McGinn, fuoriuscito temporaneamente dai Birds. Ce l'ascoltiamo, It's Alright Ma. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon, there is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn. These wasted words prove to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation page flies out the door, you follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar, you feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy, ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Although the masters make the rules, oh, the wise men and the fools, I've got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. Ci siamo trasferiti in quel di Seattle, il periodo del grunge con Nirvana, con Soundgarden, Alice in Chains e tante altre band che hanno spazzato via tutto quello che era il mondo dell'hard rock americano di fine anni 80. È arrivato questo genere di musica, è arrivato anche un film dove si trova proprio questo brano, Stay Love and Trust, che si chiamava Singles, giusto? L'hanno, sì, esatto, una rivisitazione se non altro degli schemi hard rock con forti radici negli anni 70, ovviamente Pearl Jam, State of Love and Trust, 1992, con questa bellissima commedia, Singles, con Matt Dillon tra i protagonisti, molto divertente come film e soprattutto con una grande colonna sonora, con parecchio grunge, ma non solo. Ricordiamo che oltre a Matt Honey, Pearl Jam, Chris Cornell e Soundgarden c'è sempre anche Jimi Hendrix torna spessissimo nelle colonne sonore e non poteva mancare ovviamente nella sua città natale, quindi lasciamo anche gli anni 90, anzi in realtà ci rimaniamo perché adesso andiamo a prendere il film d'esordio di una regista che è Sofia Coppola, quindi figlia di Francis Ford Coppola, che esordisce con un film drammatico ma molto intenso ambientato negli anni 70 e la colonna sonora lo dimostra bene. Questo però è il brano degli Air, Playground Love, che è un po' il tema di questo film, Il giardino delle vergini suicide. Air, siamo alla fine, anzi siamo nel 2000 per l'esattezza. Air. La radio che state ascoltando è Radio Lombardia, il sound è quello dei tedeschi Kraftwerk, naturalmente. Lo spazio musicale è Linea Rock, questa sera si parla di colonne sonore insieme alla voce di Marco Gravelli, insieme a Mox Cristadoro, insieme a tanti amici che hanno inviato mail, sms e poi l'Urlo Box sempre presente con tutti quelli della rockfamily.it che ringraziamo. Che vogliamo ringraziare di tutto cuore, ovviamente, ci siamo anche cimentati nelle risposte. Da che film è tratta questa? Allora, effettivamente questa Radioactivity, che sarebbe anche a mio avviso un ottimo titolo per un programma radiofonico, è un omonimo album del 1975 per i Kraftwerk, come giustamente detto, ma in realtà poi nel 79 viene fatto un altro road movie, quindi esattamente come Easy Rider, road movie si definisce un film ambientato sulla strada, quindi un percorso lungo un viaggio. E l'ambientazione è quella inglese, questa volta non più americana. Il film si intitola Radio On e tra i protagonisti c'è anche un giovane Sting, che all'epoca già militava ovviamente nei Police. E devo dire che nella colonna sonora di questo film la fa da padrone proprio questo album, Radioactivity dei Kraftwerk, e c'è un momento in cui si sente anche questo pezzo straordinario. Altri pezzi nella colonna sonora riguardano Nina Hagen piuttosto che David Bowie con una versione di Heroes cantata in tedesco. Bene. Quindi molto interessante. Cambiamo sonorità perché andiamo su uno dei maestri del soul, eccetera. Esatto. Musica soul che spesso nei film, soprattutto fine anni 70-80, veniva utilizzata. Io te lo citavo, mi ricordo di Isaac Hayes con Team from Shaft, esatto. È stato un grosso successo. Lui è Curtis Mayfield. Esatto, Curtis Mayfield, quindi siamo all'inizio in realtà degli anni 70, quindi quando il suono soul e funky molto urbano peraltro, la fa da padrone proprio nelle città come New York, nelle grandi metropoli americane, in cui lo spaccio della droga, e anche qui c'è un ritorno di argomento, è ormai una realtà inconfutabile. E infatti Superfly è il titolo della colonna sonora, ma anche del film, musicata proprio da Curtis Mayfield. Allora ci ascoltiamo questo tema che, per chi non lo conoscesse, questa è una delle colonne sonore più vendute ancora oggi per il repertorio di Curtis Mayfield, ma sentite quanto possa avere influenzato degli artisti degli anni 90 come per esempio Jamiroquai. Quindi Curtis Mayfield, Little Chai Running Wild. Reason with the pressure, man. Finances all that he Grande musica, bellissima musica, come scrive qualche nostro ascoltatore. Anzi, forse è il caso di fare un'altra bella infornata di nomi. Questo era Cisco che commentava la musica in generale di questa sera. Ricordiamo Curtis Mayfield con Superfly, un classico delle colonne sonore soul risalente ai primi anni 70 e un film poliziesco forse anche in questo caso. Allora, caro Marco, io voglio salutare chi continua a scrivere, come Demetrio, Andrea Young, Los Boruan, Antlon, l'Italiota, Mauri, ovviamente Cisco, Rena, Spritz, insomma sono innumerevoli quelli che in questo momento, nonostante il pareggio della Germania, sì, ma sono... noi del calcio importa poco, sì, sì, siamo un po' al di sopra di questa cosa, esatto. Per fortuna sono strade, binari che si allontanano, sono paralleli, okay, esatto, sono paralleli. Rod Stewart, protagonista della prossima canzone di un film però sotto uno pseudonimo, me lo vuoi spiegare? Sì, allora il film è Le onde del destino, che è un drammone galattico. Oh, tutti i film belli allegri, ci hai beccato stasera. Sto scherzando. Beh, vabbè, insomma, alcuni sì, alcuni no. Di un certo spessore. Io ovviamente sarei stato fin troppo banale se vi avessi proposto o riproposto, a seconda dei casi, dei classici della cinematografia rock come Tommy, come American Graffiti, piuttosto che Il Laureato, che hanno tutti delle colonne sonore assolutamente da immaginario, da immaginario collettivo. Nashville, Blues Brothers, non parliamone, certo, ovviamente. Oppure anche film degli anni 2000 come Lords of Dogtown, Almost Famous, oppure degli anni 90 come quelli di Wenders, che è un regista tedesco che si avvale spessissimo di grande musica rock, Nick Cave, U2. Eccetera. Esatto, Lou Reed, così. Ma veniamo a Rod Stewart. Poi ci sono i musical, Hair, Rocky Horror, così. Allora, Rod Stewart canta questo pezzo che in realtà esce a nome Python Lee Jackson, quindi è un featuring in questo caso, per usare il linguaggio tecnico, e siamo agli inizi degli anni 70, infatti il film Breaking the Waves, ossia Le onde del destino, è proprio ambientato negli anni 70. La colonna sonora include dei classici, dei T-Rex, dei Deep Purple, di Leonard Cohen, Roxy Music, Motley Hoople, Thin Lizzy, Procol Harum, Elton John, Jethro Tull, non manca niente. Ma io ho scelto questa In a Broken Dream, che è uno dei brani dell'inizio di questo film che consiglio a tutti di vedere, Le onde del destino. I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Before my eyes, paper cries, telling lies. The promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Dream. Beh, lui è sempre un grande, eh? Altro personaggio che arriva dalla scuola inglese degli anni, vabbè, che è scozzese, però degli anni fine 60 in avanti, con tantissime band. Grande. In A Broken Dream, infatti, è un pezzo che secondo me sottolinea molto bene proprio la voce di Rod Stewart e il film di Lars von Trier, uno dei suoi più famosi, quindi Le onde del destino. Secondo me è veramente pregno di drammaticità e di grande musica. Per tutti gli amanti del metal è una chicca, è pronta una colonna sonora dove ci sono gli Slayer. Esatto, qui adesso drizzano i capelli tutti, però diamo una sferzata, visto che siamo quasi al tempo. Torniamo negli anni 2000, esce un film che peraltro non è granché dal punto di vista, è veramente pessimo come, esatto, come immagine, perché spesso possiamo dirlo, i film si avvalgono di grandissime colonne sonore, di grandissimi interpreti per sopperire delle lacune, perfetto, perché il film in se stesso è un film di serie C, neanche di serie B. Esatto, parliamo di Dracula 2000, che ovviamente è una colonna sonora di tutto rispetto, tutto crossover, ci sono i Disturbed, i System of a Down addirittura, ma io ho scelto questo brano degli Slayer che poi, se ricordo bene, è tratto da God Hates Us All, quindi il loro album dei primi del 2000, e Bloodline è la canzone. Quindi diamo una sferzata dalla dolcezza di Rod Stewart alla voce clamorosa di Tom Araya con i suoi compagni Slayer. Una Bloodline per gli Slayer, caro Mox, siamo, ahimè, in dirittura da d'arrivo. È volato, eh? È volato veramente. E tra l'altro mi sembra anche che il tempo non sia passato, voglio dire, ritrovarmi così magicamente al microfono in tua compagnia mi sembrava veramente ieri, e che effettivamente è così. Va bene, io sono stato molto contento di essere qui, di aver ascoltato ancora e fatto ascoltare della buona musica e aver commentato le cose insieme a te. Concluderei con un altro classico che potrebbe suonare come sigla finale di questa puntata speciale di Linea Rock. e quindi torniamo a parlare di droga. No, beh, no, non lo commentiamo. Il film è appunto, il film è Easy Rider, Easy Rider, The Pusher degli Steppenwolf. Io ringrazio Mox della sua presenza, magari ci ritroveremo nel mese di settembre. Ricordo che il prossimo mercoledì invece avrò ospite il signor Eclettica Giulio Caperdoni. Grazie a tutti gli amici che hanno inviato sms, mail, gli amici della rockfamily.it. per me domani sera di nuovo qua insieme alle ore 20, ai quali va ovviamente, e anche a te Marco, il mio più caldo abbraccio circolare. Ciao, ciao a tutti. Tombstones in their eyes. But the pusher don't care. Ah, if you live or if you die. God damn, the pusher. In his hand. Oh, but the pusher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer for Nickelodeon to sell you lots of sweet dreams. Your body, love, it'll leave your mind to scream. God damn, I'm the pusher. Push it.